24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Buongiorno a tutti, cari italiani. Siamo qui alle 6:33 minuti. Riparte una settimana di 24 mattino ed è l'ultima della campagna elettorale. L'ultima, poi potremo dire tutto quello che ci pare, non ci sarà più la par condicio, la mettiamo nel cassetto, anzi nei rifiuti, la trituriamo, la ricicliamo, ne facciamo quello che volete, però possiamo dire tutto quello che vogliamo. Oh. Allora, l'ultima settimana di campagna elettorale, in questo lunedì siamo insieme fino alle 9, saluto Peter Bescapè in regia, saluto anche oggi Filippo Aureggi che è il tecnico di supporto senza il quale non saremmo qui, ci ha tagliato i file, ci ha aiutato, ha fatto tutto. E allora siamo pronti ad aprire il nostro bar? No, prima ci sarebbe il consiglio, vabbè anche. But please relax. In quest'ultima settimana soprattutto, E Minetti? A un caffè. Ah, ecco. Un caffè volentieri. Ero stravolto. Non c'era più Nicole Minetti a offrirci il caffè. Per un attimo già si imperlava la fronte di sudore. Saluto Mario Adinolfi. Buongiorno. Ma mi hanno lasciato senza Nicole Minetti alle 6:34. Ma come si fa? Ero disperato. Mario Adinolfi, con noi c'è Bimbo Alieno, il nostro blogger economico e finanziario. Buongiorno Bimbo Alieno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, oggi ce la dico subito Bimbo Alieno, guarda che c'è la Consob molto attiva, ha mandato dei rapporti alla Procura di Siena su Montepaschi, poi magari ci dirà qualcosa Bimbo Alieno con i suoi insider, qualcosa di più. Allora però il tema è, e la domanda di questa settimana, e la faccio subito a Mario Adinolfi, la TV. Oh. Allora, tutta la campagna elettorale gira attorno a questa esiziale questione. Dovremo vedere il confronto in TV dei candidati, detto che li vediamo, ormai ci escono anche dal frigorifero, dal microonde, dalla lavatrice, ma dovremo vedere il confronto proprio istituzionale, Mario? No, spero di sì, perché insomma, in qualsiasi democrazia contemporanea, avete impresso, credo, in testa quello che avviene negli Stati Uniti, è vero che è una democrazia completamente diversa dalla nostra, però insomma credo che se ne faccia abbondante uso, ma non senza andare lontano, andiamo in Francia, pensiamo a Hollande-Sarkozy, pensiamo, cioè, tutti gli scontri che hanno a che fare col destino di un paese, da un certo punto passano alla televisione con un confronto netto tra i personaggi, le idee, solo in Italia. E noi siamo italiani, ormai siamo italiani. Per tradizione c'è qualcuno che sfugge, insomma, perché è sempre più o meno così. Insomma, ogni anno, c'è ogni voto di tornata elettorale, c'è qualcuno che dice non mi conviene farlo. Tendenzialmente chi è in testa. Esatto. Chi è in testa dice perché devo rischiare di perdere dicendo qualche cazzata, questo è il succo. Che non depone molto bene per la qualità delle leadership che scriviamo poi. Vabbè, la questione è che voilà, Monti ha fatto l'appello, tra poco lo sentiremo per andare in TV. Grillo, la TV, la schifa, anzi ha annullato l'intervista prevista per Sky ed era da 4 anni che Grillo non si sottoponeva a intervista televisiva. Berlusconi dice io lo faccio ma solo con Bersani. Bersani dice io la faccio ma solo se ci sono tutti i candidati premio. Insomma, alla fine il solito casino all'italiana. Bimbo Alieno, tu vorresti vedere un bel confronto televisivo per chiarirti le idee? Certo, sarebbe bello sentir parlare un po' di contenuti ogni tanto, no? Invece di sentir parlare sempre solo di facce, apparenze, di persone, come se poi si votassero le persone. Non abbiamo neanche la possibilità di scegliere le persone da votare, dobbiamo votare solo le liste, per cui che la smettessero di parlarci di facce, di individui, ci parlassero di contenuti e di programmi. Di contenuti. Sento già Mario Adinolfi che dice: ma i contenuti non fregano niente. Eccolo lì, cioè i contenuti non fregano. No, perché uno qua c'è, no? Ma Mario, ma come i contenuti? Grillo prende una valanga di contenuti senza contenuti. Senza contenuti. Mario Adinolfi è uno della teoria che chi se ne frega dei contenuti. No, me ne frega, so che non funziona così, cioè in Italia non si vota sui contenuti. Sì, vabbè, però non qualcosa dovremmo fare, da 20 anni sempre gli stessi, che i contenuti li conosciamo, insomma. Contenuti sono votano le facce, votano il referendum solido degli ultimi 20 anni, noi siamo fermi a Berlusconi e Occhietto. No, ma è chiaro, ma Adinolfi non è Adinolfi non è che lo dice, come dire, questo è il mondo migliore, no, cioè, però è una è constatazione, così, è una constatazione. Parale constatazione. È una constatazione. Allora sentiamolo. Ma aggiungerei un'altra constatazione, scusate, che siamo noi per primi a volerlo, perché probabilmente avere sempre le stesse facce ci permette di avere un alibi, poterci lamentare che sono sempre gli stessi e quant'altro. Perché quando poi si presentano le facce nuove, alla fine tutto sommato gli diciamo di starsene a casa, quindi vabbè, abbiamo capito, bimbo alieno un renziano, come era anche Adinolfi, così come io sono un rottamato, e voleva rottamare questa classe di dirigente, non c'è riuscito, è finito rottamato lui, quindi come capite questo paese insomma più o meno funziona così. Allora sentiamolo Monti e l'appellone di Monti. Mancano pochissimi giorni al voto. Davvero volete sottrarre ai cittadini italiani il diritto di formarsi un'idea sulla base di un confronto diretto tra i candidati? Onorevole Berlusconi, onorevole Bersani, non facciamo questo. E vabbè, poi continua l'appello, devo un po' riassumerlo, perché sennò altrimenti mi dare un po' più di verve, voglio dire. Tra l'altro andare in tv, attenzione, perché non sempre fa benissimo, con questo profluvio di immagini, con questo continuo apparire, con questo voler essere sempre davanti ai teleschermi. Sentite cosa è successo a Di Pietro, o meglio, sentite, ve lo devo spiegare. Di Pietro stava facendo un'intervista a Sky, credo, a un certo punto abbandona l'intervista improvvisamente e l'intervistatrice dice: ma dove va? A un certo punto, dopo 2-3 minuti, ritorna Di Pietro e sentite la spiegazione. Buongiorno Di Pietro, allora come sta? Si sente meglio? Buongiorno a tutti. Posso dare un consiglio culinario in diretta a tutti gli ascoltatori? I peperoni la sera è meglio non mangiarli a una certa ora. Meglio evitarli, sono stati quelli. Perché poi i peperoni pesanti, soprattutto se sono fritti, fanno male. Hai capito Adinolfi? Hai capito Adinolfi? Ah, non lo so, io vado a peperoni la sera senza problemi, tra l'età. Ho capito, però a furia di andare in televisione, poi succedono queste cose con Di Pietro che deve andare via perché ha mangiato i peperoni fritti e, come ha detto alla fine, dice un mal de panza improvviso. È arrivato. Vabbè. Ma ha fatto bene Grillo? Perché che c'ha Grillo con la TV? Mario, che c'ha Grillo? Grillo è bravo, sa che in TV non ci deve andare. Grillo, la sua partita la sta giocando in maniera perfetta. Ma cos'è il diavolo la TV? Cioè, se va anche in TV, ma il dialogo non gli serve. Cioè, uno fa questa campagna. Oggetti, adesso si può amare, si può detestare, si può fare qualsiasi ragionamento su Grillo. Grillo sta facendo una cosa di una colossale grandezza, cioè prendere un branco di nulla e portare il 20% alle elezioni, perché minimo fa il 20%. Ora, a cosa serve a lui fare l'intervista televisiva classica Sky? Cosa aggiunge? È una cosa che non gli serviva, e giustamente chi lo guida, che probabilmente sarà Casaleggio, gli avrà detto: ma andiamo, perché dobbiamo fare questa cosa? Capito, bimbo alieno, altro che i contenuti, dice: ma che mi frega? Ma vogliamo accettare come una cosa normale che una forza arrivi a prendere quel 15-20% giù di lì senza farsi sentire fare una domanda? Ho capito, ma fai comizi, vai in piazza. Ma l'hai vista le piazze? Ieri era a Genova, cioè Renzi ha portato 5.000 persone a Torino. Comizi, Grillo non lo so, nei comizi non c'è nessuno che ti fa delle domande, che ti mette in difficoltà, che ti chiede vorresti di spiegare una cosa, il come. Cavolo, cioè. La cosa all'americana, no? Dei giornalisti che fosse una cosa che riguarda tutti, oppure se non lo fai paghi un prezzo. Allora, se non vado in televisione pago un prezzo, ma se tu, mettendoti sempre dall'ottica di Grillo, non sto parlando di quello che avrei voluto vedere io da cittadino, certo, ovviamente avrei voluto vedere l'intervista e bla bla bla, ma stando nell'ottica di Grillo, quando nessuno, tutti si sottraggono, tutti quanti non vogliono fare il confronto, a tutto da pagare, a tutto da perdere, non ha niente da guadagnare, questo è tutto da perdere, non ha niente da guadagnare. Effettivamente, cioè, in questo devo dire, bimbo alieno, tu e anch'io siamo un po' digiuni della politica, eh? Mario Adinolfi è un cavallo di razza, vabbè, che capisce come funziona. Scappato. Ho capito, ma capisce come funziona, cioè, ma cosa c'ha da guadagnare Beppe Grillo se va a fare un'intervista a TV? Zero. Sky, cioè senza senso, cioè una cosa, un'operazione senza senso, era, per cui giustamente qualcuno gli ha detto vada, falla saltare questa, a 4 giorni, 5 giorni alla fine. Bimbo Aliero non si capacita, dici Bimbo Aliero, ma, no, ma, ma io mi chiedo perché annunciare un'intervista a Sky se è una cosa senza senso per poi disdirla un'ora prima, per mantenere l'interesse, perché ne stiamo parlando, così ne parliamo. No? Questa c'era arrivato anch'io, Mario, eh. Oh, porca miseria, ti dobbiamo siamo spiegare qua. Tutto. Ma lui è lì è lì a vedere già come ha aperto la borsa di Hong Kong, di Tokyo, di Pechino, Bimbo Alieno, l'insider, no, della Consol. Questa l'avevo capita anch'io, perché siamo qui a parlare di Beppe Grillo che ha fatto saltare l'intervista. Ma perché io sono uno sprovveduto. Sei uno sprovveduto. Allora facciamo sentire anche due audio di Silvio Berlusconi, che era a Torino. Sentite Silvio Berlusconi cosa fa se Monti, Fini e Casini non entrano in Parlamento. Io prometto che se lunedì sera, o comunque in ritardo martedì, Monti, Fini e Casini restano fuori dalla Camera, mi ubriaco! Si ubriaca! Si ubriaca! Perché lui, Grillo, ci fa un baffo! Vabbè, poi dopo, ovviamente, vabbè, un po' di... Giustamente, i candidati, sì, per oltre l'80% questi vengono, sono i candidati di Grillo, dell'estrema sinistra. E sono, sentite questa, persone che stavano nei centri sociali e nei comitati no TAV e nei block BOC, quelli che ha fatto Genova. Block BOC. E quindi no, Adinolfi, è un mito. Cosa sono? È il cartone animato, ragazzi. Ma cosa animato sono i block BOC? E quando diceva Google, è sempre così. I black block, ma no, i block block Berlusconi, Bimbo, quelli che hanno devastato Genova, i block block. Vabbè, spettacolo. Vabbè, invece su un'altra non ce la facciamo. Dopo 4 anni sono salito di nuovo su un palco perché oggi ne vale la pena. Mario, dall'altra parte sono c'era Prodi. Prodi. Romano. Romano Prodi. Ha fatto bene. La Presidenza della Repubblica costa qualcosa. Saranno grati. Della sfida lombarda. Cioè, nel senso che lo ha fatto per ottenere i voti per la Presidenza della Repubblica da parte del centro-sinistra. Questo dicevo. Io credo che se il centro-sinistra dovesse affermarsi alle elezioni in maniera seria, netta, diciamo, abbiamo già pure il Presidente della Repubblica scritto. Non vedo altri nomi all'orizzonte. Non ci sono altri nomi, però così ha fatto un endorsement. Beh, lo sappiamo che Romano Prodi, ovviamente, è un uomo di sinistra, fondatore ripeto, del Partito Democratico. Per fare il Presidente della Repubblica un piccolo prezzo devi pagare. Ha dovuto pagare questo e fare l'appello all'ultimo giorno, l'ultimo weekend di campagna elettorale. Legittimamente Prodi aspira al Quirinale E quindi ha dovuto fare questo. Capito, Bimbo Alieno, anche questa lettura come funziona? No, grazie, perché se mi fate l'esegesi la didascalia è meglio, perché no, però è una lettura interessante. Io, cioè, direi, ragiono su altri binari, direi che è molto interessante. Ragiono sui binari di che cosa? Del capire? No, su altre logiche. Io Sì. I programmi, poi ti mandiamo un sunto dei programmi, andiamo a sentire. Grazie. Le informazioni. No, ma li ho già scaricati. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. 24 mattino. Passerotto Bersani è così scarso e perdente da far tenerezza. Tacchino Monti, è sufficiente che uno fischi e lui risponde. Troppo facile per il caimano Silvio ed il giullare Grillo. Bene, siamo messi male. Dai, tiro sulla Claire e consoliamoci con Nicole che ci offre un caffè. Unico politico generoso. Basta! Basta! Lo Stato ha incassato 26,7 miliardi da Limu. Scandalo! Zitti nu ladru dentro Parlamento. Fui curioso e ci vossi spiari, i sumari spugna con granduluri, sono rimasto solo a rubari, magari fosse vero e fosse rimasto solo uno di questi politici corrotti e ladri, magari. Alessandro, ciao, sì, sono abbastanza calmo. Il Porcellum va bene, si sa che è una porcata, ma non dare uguale spazio a tutti i candidati mi pare peggio, no? Forse, mi viene questo dubbio, che i vecchi partiti hanno paura di una vera rivoluzione civile? Pensiamoci tutti quanti. Cosa ti devo dire? Io mi faccio schifo che sono italiano, mi faccio schifo. È una vergogna, ma noi siamo solo dei coglioni. Dobbiamo iniziare a fare la guerra, sti politici li dobbiamo mandare tutti a lavorare al posto nostro. E vedi poi che significa prendere 1.000 euro al mese e pagare, pagare, pagare, poi devi fare i conti sul tavolo a casa degli spiccioli. E questi rubano i milioni di euro, pezzi di merda! E il clima è anche un po' questo, eh? Il clima è anche un po' questo. Siamo con Mario Adinolfi e con Bimbo Alieno. A proposito di Beppe Grillo ha chiesto questo in uno dei comizi, credo, due giorni fa, era a Torino, la commissione d'inchiesta sul Monte Paschi, sentite. Ci prendiamo tutto, ci prendiamo anche il gruppo di 21 miliardi a due commissioni, tu! Che si apre immediatamente una commissione, si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95. Eccolo qui, la commissione d'inchiesta. Allora, Bimbo Alieno, qui su Monte Paschi, che succede? Oggi Repubblica scrive che la Consob ha lanciato altri due rapporti sotto ora la lente di ingrandimento della Procura. È possibile questa idea di mettere sotto inchiesta tutti i vertici del PD? Perché dice Beppe Grillo c'è un legame stretto tra il partito e la banca, Bimbo Alieno. Ma allora, il legame sicuramente c'è. E sicuramente la richiesta di commissione d'inchiesta è più seria di un'altra richiesta di commissione d'inchiesta di qualche tempo fa riguardante altre vicende. Quali? Più elettorali. Ci fu la richiesta di una commissione d'inchiesta sul come era caduto il governo a novembre del 2011. Questa richiesta mi sembra un pochettino più fondata e più seria. Diciamo che sicuramente... Vanno chiarite gli aspetti e le modalità con cui soprattutto l'operazione principale, quella di acquisto di Anton Veneta, è stata, diciamo, il casus belli. Sì, ma la questione è ci vuole una commissione d'inchiesta, cioè la procura sta indagando politico successivo che chiede Beppe Grillo, che è molto forte, cioè, non so, Mario Adinolfi... Ma che inchiesta devi fare? Da Banca 121 in poi a Banca Antonio, che inchiesta ci fa? Devi scoprire che il PD aveva i conti stessi con Monte Paschi Siena? Io la commissione d'inchiesta, mi piacerebbe, anzi non una commissione d'inchiesta, un'inchiesta, magari anche giornalistica, fatta seriamente, sì. Visto che la Consob parla, sulla Consob, su Banca d'Italia, sui controllori che davanti a qualcosa di allucinante, che tutti noi vedevamo accadere come allucinante, non è che non hanno controllato, non hanno proferito verbo. Non, adesso è troppo facile a voi scappati dalle stalle, dice adesso sì, però dobbiamo, allora la Consob si sveglia, ora si svegli. Cioè Banca d'Italia, ragazzi... Hanno fatto operazioni incredibili, perché la verità è che in questo paese non si vuole mai dire che anche gli enti controllori sono politicamente infiltrati, quindi che cavolo vuoi fare la commissione inchiesta sui vertici PD? Lo sappiamo evidentemente quello che è accaduto, perché è di tutta evidenza, ripeto, non si parte da Anton Veneta, si parte da Banca 121. Che racconta benissimo quello che era, diciamo, l'intreccio. Cioè, non servono le commissioni d'inchiesta, la faresti sulla Banca Italia? È noto, la cosa che io non riesco a capire è come si possa immaginare che alle prossime elezioni, con ogni probabilità, le classi dirigenti che hanno combinato tutto questo, di destra come di sinistra, saranno di nuovo maggioritarie nel paese, ragazzi. Sì, cioè, non è che un regime democratico, poi alla fine parla la democrazia e noi ci sveglieremo lunedì pomeriggio, in cui alla fine la coalizione Cavaliere e la coalizione del ministro di 8-10 anni di governo di centro-sinistra saranno alla fine del 65-70%, qualcosa di meno forse, ma insomma sarà quello la dimensione. Cioè la maggioranza assoluta di questo paese vuole la continuità del disastro. Addirittura. Questa è la triste, lo vedremo con i numeri. Dobbiamo mettere in campo un sillogismo. Questa classe dirigente, queste classi dirigenti degli ultimi 20 anni, della cosiddetta Seconda Repubblica hanno provocato il disastro, punto della domanda? Possiamo dire sì, tutti serenamente? Sì. Allora, queste persone voteranno in maggioranza assoluta per queste coalizioni che si presentano? Io credo di sì. E allora, il sillogismo è questo. Allora staremo a vedere. Io vi devo salutare, vi faccio un quiz veloce. Chi è che ha detto non ce la faccio più, non posso andare avanti, i risparmi sono finiti, devo cercare assolutamente un lavoro, potrei insegnare ma devo fare qualcosa? Chi l'ha detto? Adinolfi. Un pensionato, no? Un pensionato. Chi l'ha detto? Bimbo alieno, chi l'ha detto? L'ha detto Brunetta. Francesco Schettino, comandante, grande, che cerca un posto comandante. Di lavoro. Però anche Brunetta non era male, la risposta di Bimbo alieno. Sì, no. E pare che a Numana qualcuno lo voglia ingaggiare per farlo testimonial per il turismo. Questa è l'Italia, testimonial per il turismo. Il comandante Schettino, vi saluto con questa. E vi mandate dico buona... De André, Don Raffaele. Adesso, esatto, esatto. Ciao, grazie a Maria Adinolfi, a Bimbo alieno, a dopo. Ciao, ciao. E nei block bot, e nei block bot, quelli che hanno fatto Genova. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui nuovamente, cari ascoltatori, alle 7:20 minuti in questo istante su Radio 24. Se vi siete collegati ora, ben trovati. Siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo anche gli ospiti che troveremo oggi alle 8:15. Sarà con noi il presidente della Lombardia, presidente uscente, Roberto Formigoni. E poi parleremo ancora di tutte queste inchieste in quest'ultima settimana di campagna elettorale che hanno fatto dire al presidente del Consiglio Mario Monti è come Tangentopoli, è tornata Tangentopoli. E avremo con noi Massimo Fini del Fatto Quotidiano e Davide Giacalone, due giornalisti, alle 8:30 con noi. E allora, che dire, andiamo a scoprire cosa ci propongono i quotidiani in edicola in questo lunedì 18 febbraio. Intanto iniziamo dai titoli, come al solito. Il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, apre con una cifra impressionante che troverete nel titolo di prima pagina: pagamenti bloccati per 140 miliardi. Sono uno dei nodi della crescita. In Lazio, Campania e Puglia i debiti commerciali complessivi più elevati sono i residui passivi, per la verità sono 136,9 miliardi di euro di comuni, province e regioni impegnati ma non spesi perché bloccati dal patto di stabilità. Molti di questi soldi spettano ai fornitori, ovviamente alla pubblica amministrazione. E poi la maggior parte dei giornali titola sul tema della TV. La TV e il confronto televisivo di questa settimana, che probabilmente non ci sarà, almeno allo stato dei fatti, e che alcuni auspicano ci sia, è il tema più importante, secondo alcuni quotidiani, di questa campagna elettorale in questo momento. Sfida di Monti, confronto in TV, così apre il Corriere della Sera. Oppure La Stampa, elezioni, la guerra della TV. Il Messaggero, sfida TV, doppio no a Monti. Berlusconi e Bersani bocciano il confronto a tre, mentre Grillo annulla l'intervista a Sky. Repubblica apre su Bersani a Milano, la svolta parte da Milano, questo è il titolo di prima pagina. Il Giornale invece, la promessa di Berlusconi, via il mostro Equitalia, dopo l'abolizione dell'IMU ecco un'altra proposta a favore dei contribuenti. Mentre Il Secolo XIX apre su Grillo, invade le piazze della Liguria. Il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, Monti a Berlusconi e Bersani, pericolo Grillo. E poi c'è anche un numero con molte pagine dedicate all'Italia inquinata, tutte le ILVA del paese, mentre l'Unità apre con Da Milano la scossa per l'Italia, il comizio di Pierluigi Bersani. Allora, intanto qualche cifra dal Sole 24 Ore, sapete, le trovate a pagina 7. Quanto costeranno queste elezioni dal punto di vista proprio della macchina elettorale? Secondo voi quanto potranno costare? Ecco qui la cifra che trovate sul Sole 24 Ore: 389 milioni di euro. La macchina elettorale costa quasi 400 milioni, questo è il titolo dell'articolo. un costo di 389 milioni per la precisione, sono una trentina in più, l'11% in più rispetto alle politiche di 5 anni fa, con un incremento di spesa di quasi 800 euro per ogni sezione e quasi i 2/3 di candidati in più rispetto alle elezioni del 2008. Quanto costerà ciascuno dei 61.596 seggi? Costerà circa 6.315 euro, un aumento del 13,2% rispetto alle votazioni di 5 anni fa. Costa di più anche la retribuzione. La retribuzione è la stessa degli scrutatori, 170 euro per il presidente, 145 per gli scrutatori, compensi che saranno maggiorati dove si la vota anche per le regionali, 224 euro al presidente, 170 euro per gli scrutatori. Un aspetto però che fa notare il Sole 24 Ore, che balza subito agli occhi, è che in barba al vento dell'antipolitica sono tanti quelli che vogliono tentare la carta della carriera politica, Ebbene sì, i candidati per i seggi di entrambe le aule, Camera e Senato, sono 2/3 in più rispetto alle politiche di 5 anni fa. Come mai tutta questa voglia di entrare in Parlamento? Chissà perché. Tra Camera e Senato si presenteranno più di 16.000 candidati, sono quasi 6.200 in più rispetto alle ultime politiche, quando in totale non si andò oltre quota 10.000 candidati. Invece stavolta saranno più di 16.000 candidati, il 29,5% la presenza di candidati donne alla Camera, mentre a Palazzo Madama al Senato i candidati in più crescono del 51% rispetto a 5 anni fa. Attenzione, 5.282 candidati, allora 5 anni fa erano 3.492. Comunque la cifra interessante e più interessante è che la macchina elettorale costerà in tutto 389 milioni di euro. Lo trovate sul Sole 24 Ore. E poi è tornato il comandante Francesco Schettino. E io ero un po' in crisi d'astinenza sui giornali perché erano 10 giorni senza notizie su Francesco Schettino. Udite, perché l'ultima è questa. Colloquio di lavoro a Numana. Schettino testimonial per il turismo, così titola il Corriere della Sera, ma anche La Stampa. Schettino testimonial, ma il comune di Numana non lo vuole. Siamo in provincia di Ancona, dove si è sparso questo giallo. Francesco Schettino, leggo dall'articolo del Corriere della Sera di Francesco Alberti, e lo trovate a pagina 22. Francesco Schettino, l'uomo del naufragio della Costa, cerca lavoro. Dice di non disporre di fonti di sostentamento, è costretto dall'autorità giudiziaria all'obbligo di dimora a Meta di Sorrento in attesa del processo che lo vede indagato per omicidio plurimo colposo, naufragio, abbandono di persone incapaci di provvedere a se stesse, abbandono di nave, omessa comunicazione dell'incidente alle autorità marittime, ma ha lanciato appelli, ha scatenato un vero e proprio giallo. Qualche giorno fa ha fatto un'intervista al Nautilus International Telegraph dicendo: non posso andare avanti così, risparmi non bastano più, voglio ricominciare a navigare, il mare è la mia vita, o almeno potrei insegnare. E così si è sparso un giallo perché è atteso a Numana, località balneare in provincia di Ancona, per portare la sua testimonianza in fatto di viaggi e turismo. Subito quando si è sparsa la notizia, ovviamente tra l'associazione dei commercianti di Numana, il sindaco di Numana, ma chi l'ha invitato? Nessuno l'ha invitato. E scrive Alberti sul Corriere della Sera: abbiamo chiesto ai magistrati un permesso per andare a Numana. Questo conferma l'avvocato di Francesco Schettino. Ci sarà un'offerta per lui nel settore turistico alberghiero, altro non so. Alla fine si scopre chi è l'amico che lo ha invitato. Si tratta di Andrea Andreucci, presidente dell'Associazione Commercianti di Numana, che sulle prime cade dalle nuvole, non so niente della venuta in paese di Schettino. Poi ammette di averlo sentito, per poi chiudere ambiguo: aspettate e vedrete. Il giallo a Numana di Francesco Schettino. Qualcuno lo vuole ingaggiare come testimonial per il turismo o per un posto di lavoro? Chi lo sa? Chi lo sa? Aspettate e vedrete, ha detto chi lo ha contattato. Chiudo prima della pubblicità con un'altra segnalazione del Corriere della Sera che interessa a moltissimi italiani, certamente, perché riguarda i condomini, là dove si annidano tante delle cause, delle risse verbali, dei fegati ingrossati, delle convivenze pacifiche che vanno in frantumi. Ebbene sappiate che, come scrive Elvira Serra sul Corriere a pagina 27, aumentano sempre più le cause in cui un giudice sfratta una persona per molestie, per rumori, per vicinato molesto, utilizzando la legge sullo stalking. Volume della radio, odori molesti quando lo stalking è condominiale. C'è una legge che tutela gli ex partner che si applica anche ai vicini di casa. L'ultimo caso arriva dal padovano, un uomo di 43 anni, costretto dal giudice ad abbandonare l'appartamento dove viveva con la fidanzata. Dovrà restare ora almeno 500 metri dai vicini perché di giorno faceva un rumore terribile, scagliava oggetti, schiamazzi vari, chiunque gli diceva qualcosa veniva minacciato da lui, e poi di notte, tutto questo di notte, e poi di giorno dormiva. Ed è stato allontanato dal giudice Mariella Fino, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Giorgio Falcone. I carabinieri sono intervenuti per sfrattarlo, buttarlo fuori di casa per molestie, per stalking. Ma non è il primo caso. 2 mesi fa era successo a Milano, a Vicenza è successo nel 2010, 2 fidanzati che facevano scherzi a tutti, tipo staccare la corrente durante le ferie, così la gente tornava e trovava i freezer scongelati, i pavimenti allagati, e facevano queste amenità. Sono stati cacciati dal giudice per stalking. Insomma, continuano ad aumentare il numero di casi in cui si applica questa legge di stalking anche per i vicini di casa. Rumori molesti, odori molesti, battete sui pugni, magari fate all'amore in maniera troppo rumorosa, perché c'è anche questo nelle cause. Via, sfrattati, perché arriva la legge sullo stalking condominiale. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Ed eccoci qua allora alle 7:35 minuti, siamo nell'ultima settimana di campagna elettorale, cari ascoltatori. Io non ci volevo credere oggi a leggere i giornali, nel senso che non volevo credere che per molti l'apertura fosse, e diverse pagine fossero dedicate a questo, al tema del confronto televisivo. Ci sarà o no il confronto televisivo, come ha chiesto in appello il premier Mario Monti, ma sia Berlusconi sia Bersani, adducendo motivazioni diverse, per il momento dicono no a questo confronto televisivo. Ecco, non volevo crederci che questo fosse il tema principale, invece così è il tema principale per molti quotidiani, lo trovate sui giornali. Monti agli avversari, ora un confronto in TV, così a pagina 5 il Corriere della Sera. La sfida del premier è nostro dovere davanti agli elettori. Berlusconi in pratica ha risposto: io lo faccio ma solo con Bersani, come dire, siamo noi i due competitor principali. Bersani invece dice: io lo faccio ma con tutti. Il risultato è che per ora non si fa. Anche per Repubblica: Bersani e Berlusconi accettino il duello TV, questo l'appello sfida di Monti, non vi potete sottrarre, ma il leader di PD e PDL dicono ormai è tardi. E così anche La Stampa: Monti a Berlusconi e Bersani, il faccia a faccia è un dovere. Questo nel giorno in cui la TV, il ruolo della TV, è stato messo al centro dalla rinuncia di Beppe Grillo, che aveva annunciato: farò un'intervista con Sky domenica sera. E era un atteso ritorno, perché da 4 anni non appariva in un'intervista con domande e risposte, fa solo comizi in giro per l'Italia. Ma poi nel pomeriggio Beppe Grillo ha annullato questa intervista. Grillo crea un caso, così il Corriere della Sera. Salto l'intervista, è roba da politici. In pratica, in uno dei suoi comizi ieri, era in Liguria, Savona, poi a Genova, ha detto: sono cose di politici, a me non serve. E ha annullato questa intervista con annesse polemiche. Il giornale la mette su questo tono: che paura le domande, Grillo scappa dall'intervista in TV, così a pagina 4. Ci sono anche 2 interviste interessanti che vi voglio segnalare, interessanti per il tema di cui stiamo parlando. Vale a dire, il direttore di Sky TG24 Sara Varetto viene intervistata da Repubblica, da Leandro Palestini. E dice: è stato un calcolo di convenienza, alla fine ha pensato che non gli convenisse rispondere alle nostre domande. Sul suo sito ora dice di preferire la piazza, altro che Salotti TV. Mercoledì scorso ha annunciato prima di noi l'intervista di mezz'ora con il nostro Fabio Vitale, un atteggiamento che non mi è piaciuto. insomma ce l'ha un po', ha un po' il dente avvelenato ovviamente il direttore di Sky TG24, che pensava di fare un colpo dal punto di vista mediatico. Di sicuro, dice Sara Varetto, quello di Grillo non è un atteggiamento coerente con la posizione assunta fino al giorno prima, non risponde al bisogno corretto di dare informazione ai cittadini che andranno a votare. Antidemocratico? Beh, prima ha accettato l'invito, poi si è sottratto. Del ripensamento mi hanno informato suoi emissari nella tarda serata di sabato. Inutili le trattative, lui non si è fatto vivo. Che si tirava indietro, lo ha detto via Twitter. Non credo comunque che Grillo abbia paura della TV, certo sapeva che noi ci battiamo da sempre per dei confronti leali. Ai leader facciamo domande vere. Alcune di queste che avremmo voluto rivolgere a Grillo le stiamo rivelando nel TG. Volevamo sapere se tra le varie abolizioni IMU, IRPEF e IVA prevede pure quella di Equitalia, se ha delle proposte per combattere la disoccupazione giovanile, quale posizione prende sui matrimoni delle coppie gay, dopo le critiche alle sue parlamentari, e se può chiarire il funzionamento del Movimento 5 Stelle. Ecco, queste alcune delle domande che dice Sky avrebbe fatto a Beppe Grillo. Su questo tema interviene anche Enrico Mentana, il direttore della 7, intervistato da Stefano Feltri per Il Fatto Quotidiano a pagina 3. Sta sfondando, non gli conviene cambiare tattica. Ecco, questa è l'analisi di Mentana, che dice, rivela, mi ha telefonato lui una ventina di giorni fa, cioè Beppe Grillo, per dirmi che aveva deciso di fare un'intervista con me. Mi avrebbe poi chiamato Gianroberto, immagino si riferisse a Casaleggio. Poi che è successo? Beh, altre trasmissioni di La 7 hanno fatto servizi sul Movimento 5 Stelle che non sono piaciuti a Grillo e lui mi ha mandato un messaggio per dirmi che con La 7 aveva chiuso. Beh, suscettibile. Accusa anche noi di La 7, dice Mentana, dopo tutto quello che abbiamo fatto, di censurare il movimento. Comunque, mentre discutevo con lui, mi sono accorto che non aveva una grande determinazione. Fossi stato nei panni di Grillo, anche io ci avrei pensato bene. A lui conviene fare tutta la campagna come antisistema e antitelevisione. Quindi, da un certo punto di vista, Enrico Mentana gli dà ragione. Infatti, Paolo Crecchi, sul Secolo XIX, racconta lo straordinario successo di piazza di Beppe Grillo. Ma Seghepensu chiude il comizio per gli arrabbiati, era nella sua Genova. L'ex comico, sono nato e cresciuto qui, vi conosco tutti. E infatti Paolo Crecchi inizia così il suo articolo Racconto sul Secolo. Toh! Un comizio a De Ferrari, la piazza del 30 giugno dei funerali di Guido Rossa, dell'orchestra del Carlo Felice che suona all'aperto nel giorno della rivolta contro lo smantellamento dell'industria pubblica, dei Camalli in rivolta contro lo scippo dell'autonomia in banchina, del mondo dello shipping contro i privilegi dei Camalli. A De Ferrari, in una sera gelida di tramontana, il comico Beppe Grillo fa quello che hanno sempre fatto i politici e i sindacalisti, arringa la folla, parlando di lavoro, giustizia, futuro, come una volta i leader dei partiti che oggi preferiscono i talk show. Sono nato e cresciuto qui, vi conosco tutti, questo lululato che accoglie Beppe Grillo nel solito comizio, insomma, tra battute, accuse, l'unico appello, scrive Crecchi, è il tutti a casa. Insomma, fa bene, non fa bene, che ne pensate? Questa è la domanda che almeno in questo lunedì tiene banco sulla campagna elettorale. Ormai i programmi sono abbastanza accantonati, mancano 7 giorni, anzi 5 giorni di campagna elettorale, ci attenderemo 5 giorni così di botta e risposta, di insulti, batti e ribatti, ripicche. Questo sarà gli ultimi giorni di campagna elettorale. Ieri c'è stata la sorpresa al comizio di Bersani, è apparso dopo 4 anni su un palco Romano Prodi. Prodi scende in campo per Bersani, così titola il Corriere della Sera pagina 8. A sorpresa è apparso a Milano, si è materializzato, scrive Maurizio Giannattasio, alle 16.30 dopo 4 anni di assenza da pubblici comizi. Romano Prodi è salito sul palco di Piazza Duomo accanto a Bersani con i 30.000 accorsi sotto la Madonnina che esplodono in grida di giubilo, scrive Giannattasio. Insomma, Prodi presidente della Repubblica e lui fa no con il ditino. Insomma, Prodi che parla per Bersani. Berlusconi, l'abbiamo sentito alle 6.30, ha fatto anche lui comizio a Torino, nel quale ha attaccato duramente sia Fini, Casini e Monti. Ha detto: se non vengono eletti in Parlamento, io martedì sera mi ubriaco. Poi ha detto di Grillo: Grillo a noi non ci fa un baffo. Insomma, tutto questo per andare all'editoriale di Giuliano Ferrara, che oggi sul Foglio tratteggia un po' quello che lui stesso definisce il matto Berlusconi. in una forma strepitosa. Secondo me, scrive Ferrara, ha sbagliato tutto, lo dico con amore, senza supponenza, stavolta non se la cava a buon prezzo, ma la forma è smagliante e racconta tutte le battute di Berlusconi, una su tutti, le cosiddette supposte di Tremonti, no? Ha una domanda: che farà il ministro Tremonti? Beh, ha un fratello farmacista, lo mandiamo ministro alla sanità, così mette supposte a tutti gli italiani. Questa è una delle battute che ha fatto da Agorà Silvio Berlusconi quando è andato ospite di Andrea Veniello. Ma insomma, la conclusione di Ferrara in pratica è una ammissione, se volete anche triste e sconsolata, della fotografia che il direttore del Foglio fa dell'Italia. Sentite, è questa: non dirò mai che mi turo il naso ma lo voto, dirò che mi vergogno, ma se penso a Bersani, a Grillo, a Ingroia, tutto sommato gli assomiglio. Non mi ha tenuto da conto Monti, ha fatto male, ma un matto siffatto rende ridicola anche la sola idea di una soluzione per l'Italia e ti fa venire la tentazione di un tuffo ancora nella crisi. Insomma, addirittura Giuliano Ferrara che dice: voto un matto forse, me ne vergogno, ma questa sua pazzia fa venire la tentazione di un tuffo ancora nella crisi. Il titolo dell'editoriale è: i sermoneggi dei puritanucci ti fanno perdonare sempre Berlusconi. Dei programmi si parla pochissimo, come detto. Vi segnalo un'iniziativa interessante, il Corriere della Sera, a pagina 2-3. Quanto costano i programmi dei partiti? Ha fatto fare un'analisi dall'Istituto Oxford Economics, che ha messo a confronto i piani delle forze politiche in campo. Difficile il taglio del debito per 400 miliardi indicato dal Popolo della Libertà, ma sono due pagine intense, molto interessanti, le uniche di, sì, per chi si vuole occupare dei programmi, di questa analisi dei programmi. Per esempio, in via generale, dice l'Oxford Economics, questo istituto per il Corriere della Sera, il programma del PDL è quello che più fa aumentare il prodotto interno lordo e occupazione, ma a spese del deficit pubblico. In via abbastanza teorica, però, è interessante notare che in tutti e quattro gli scenari analizzati l'inflazione rimane bassa, in alcuni casi troppo, se la si riferisce al mandato della Banca Centrale Europea, che pone l'obiettivo sotto al 2%, ma non lontano da quel livello. Il programma invece del PD, che ricorda il Corriere, ha preferito non fornire dati dettagliati, ha un impatto positivo dello 0,4% sul PIL rispetto alle previsioni del modello di base. La crescita tornerebbe nel 2014 con un più 0,4% e si stabilizzerebbe all'1,4% tra il 2016 e il 2018, non sufficiente però a far scattare una riduzione significativa della disoccupazione. Insomma, queste sono le analisi, ovviamente sono due pagine, poi c'è l'analisi anche di Monti. Il programma della lista del Presidente del Consiglio porta a una crescita piuttosto bassa del PIL nel 2013-2014, negli anni successivi però il PIL aumenta e nel 2018 cresce a un ritmo dell'1,8%, che è lo 0,8% in più di quanto farebbe l'economia italiana a politiche invariate. Questa è l'analisi per il Corriere dell'Istituto Oxford Economics, la trovate in dettaglio a pagina 2-3 del Corriere. E noi ripartiamo dopo le informazioni sul traffico con questa cifra sparata in prima pagina al Sole 24 Ore: 140 miliardi, questi sono i pagamenti bloccati da parte della pubblica amministrazione. Ecco la solita cifra impressionante: 140 miliardi, per la verità sono 136,9 miliardi di euro che comuni, province e regioni hanno impegnato ma non speso, perché bloccati dal patto di stabilità o da difficoltà di cassa. Tra questi, 100 miliardi sono bloccati da oltre un anno, il fenomeno è in crescita. Questo ovviamente cosa vuol dire? Vuol dire che sono soprattutto queste cifre destinate ai fornitori della pubblica amministrazione, cioè alle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. Ecco l'Italia dei pagamenti bloccati, c'è tutta la mappa, pagina 3, regione per regione, ente per ente. Gianni Trovati racconta di questo mare di 136,9 miliardi di euro che dovrebbero trasformarsi in pagamenti puntuali da parte delle pubbliche amministrazioni, ma si incagliano nel patto di stabilità, nelle difficoltà di cassa, in altri inciampi gestionali. Nel linguaggio dei tecnici sono chiamati residui passivi. Nella vita delle imprese sono il sangue che non arriva più per sostenere l'azienda, spesso finisce per produrre il fenomeno italiano della morte per crediti delle aziende, anziché per debiti. È questo che c'era alla base della giornata della collera che mercoledì ha spinto i costruttori a coprire Piazza Affari a Milano con più di 10.000 caschetti gialli, e ci sono in questa rabbia i miliardi di euro in fatture già emessi per lavori già fatti ma mai incassati. Insomma, queste sono le dimensioni del fenomeno e i dettagli li trovate appunto sul Sole 24 Ore. Come dire, c'è tanto anche, ci sono tante pagine sul Papa. Papa che ieri ha parlato all'Angelus, poi questa settimana, o forse per due settimane, adesso abbiamo sentito anche in giornale e radio, insomma per un certo periodo non si mostrerà più al pubblico, Benedetto XVI. Ieri ha fatto questo appello: non usate Dio per avere il potere, questo ha detto il Papa. Sono stati in 100.000 in Piazza San Pietro, qualcuno racconta sui giornali, anche gli urlava rimani, rimani, insomma qualcuno che spera addirittura in un miracolo, ma insomma, ormai la decisione è presa. Riguardo al pontefice vi segnalo una bella pagina del Corriere della Sera, pagina 13, è la testimonianza di Peter Sewald. Chi è Peter Sewald? È il biografo ufficiale del Papa. Sono la fine del vecchio e l'inizio del nuovo. Così è l'ultimo colloquio avvenuto 2 mesi e mezzo fa con il biografo da parte del pontefice. Racconta Sewald: il nostro ultimo incontro risale a 10 settimane fa. Il Papa mi aveva accolto nel Palazzo Apostolico per proseguire i colloqui finalizzati al lavoro della sua biografia. L'udito calato, l'occhio sinistro non vedeva più, il corpo smagrito, tanto che i sarti facevano fatica a tenere il passo coi nuovi abiti. È diventato molto delicato, ancora più amabile e umile, del tutto riservato. Non appare malato, ma la stanchezza che si era impossessata di tutta la sua persona, corpo e anima, non si poteva più ignorare. Abbiamo parlato di quando ha disertato dall'esercito di Hitler, del suo rapporto con i genitori, dei dischi su cui imparava le lingue, degli anni fondamentali sul Mons Doctus, il monte dei dotti di Freising, dove da 1000 anni l'elite spirituale del paese viene introdotta ai misteri della fede. Poi Sewald racconta, gli ho chiesto anche dell'affare VatiLeaks, cioè dei documenti fuoriusciti dal Vaticano. Non mi lascio andare a una sorta di disperazione o di dolore universale, mi ha risposto il Papa. Semplicemente mi appare incomprensibile, anche considerando la persona, vale a dire il maggiordomo Paolo Gabriele. Non capisco cosa si possa aspettare, non riesco a penetrare la sua psicologia. Però l'evento, dice Sewald, non gli aveva fatto perdere la bussola, né gli aveva fatto sentire la stanchezza del suo ruolo, perché, mi ha detto il Papa, può sempre accadere. Però, racconta Sewald, mai lo avevo visto così esausto e così prostrato. E allora gli chiesi: cosa ci si deve ancora aspettare da sua santità, dal suo pontificato? E lui: da me? Da me non molto, sono un uomo anziano, le forze mi abbandonano, penso che basti ciò che ho fatto. Pensa di ritirarsi, allora gli chiesi? Dipende da cosa mi imporranno le mie energie fisiche. Insomma, una pagina molto intensa di quest'ultimo incontro del biografo Peter Sewald con il Papa, e tra l'altro si conclude questo incontro, o meglio questo articolo del resoconto dell'incontro, con questa domanda: lei è la fine del vecchio, chiesi al Papa, o l'inizio del nuovo? La sua risposta fu entrambi. Da qui il titolo: sono la fine del vecchio e l'inizio del nuovo, di questo colloquio che trovate sul Corriere della Sera. La cronaca invece riporta ancora in primo piano la vicenda di Oscar Pistorius, l'atleta che ormai è abbastanza certo in Sudafrica è accusato dell'omicidio della fidanzata Reva Steenkamp, e ormai i dati sembrano parlare chiaro. Il reportage più interessante di Lorenzo Simoncelli lo trovate a pagina 15 della Stampa. Irascibile e sempre al poligono, emerge il lato buio di Pistorius. Sono una serie di testimonianze di persone che lo conoscevano, che raccontavano di un uomo sempre più dedito alla depressione negli ultimi tempi, dedito a feste che finivano con varie bottiglie vuote. Non mangiava quasi mai, si imbottiva solo di caffè e bevande energetiche, era sempre più stressato per gli impegni che doveva fare al di là degli allenamenti, e soprattutto quello che lo inchioda è che pare sia stata trovata una mazza da cricket insanguinata nella casa, con la quale, ora si stanno facendo le analisi, avrebbe colpito la fidanzata, e poi quei 4 colpi di pistola. C'è anche una telefonata nella quale un Oscar Pistorius avrebbe detto a un amico: vieni, ho sparato a Reva, alla fidanzata. Insomma, diciamo che ormai gli elementi che si stanno acquisendo parlano sempre più di un omicidio vero e proprio, e quindi la teoria del ladro o dell'incidente sembra sempre più vacillare. Per Oscar Pistorius voglio chiudere solo con il titolo della Gazzetta dello Sport: stramazzata, ai ai ai ai ai, per l'Inter. Non parliamo, insomma, diciamo, questa settimana una squadra di Milano ha già preso 4 gol. Direi che per il Barcellona è un buon viatico per le squadre di Milano. Chiudo con il rompipallone di Gene Gnocchi: ritorna in forma, successione del Papa, molte probabilità per Tarcisio Bertone, ha preso come agente Mino Raiola. "24 Mattino", l'Italia si desta. Sono le 8 e 16 minuti in questo istante, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua, e siamo a parlare di attualità politica. Lo facciamo con uno dei protagonisti degli ultimi giorni, è il presidente uscente della regione Lombardia e candidato al Senato per il Popolo della Libertà in Lombardia, si tratta di Roberto Formigoni. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta presidente, da qualche giorno lei, con la chiusura delle indagini da parte della procura, deve rispondere di un'accusa. Questa è l'ipotesi della procura: grave associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Alla luce di questo, ha sentito di recente il dibattito sui cosiddetti impresentabili. Lei si sente tale? Ma guardi, per me testimonia la mia storia di presidente di Regione Lombardia. In 18 anni sono stato indagato per 14 volte, rinviato a giudizio 11 volte, tutte le 11 volte la magistratura ha constatato la mia assoluta innocenza, la mia assoluta estraneità ai fatti. Quindi diciamo che questa quindicesima indagine che mi riguarda, io ne ho parlato in lungo e in largo, ho dimostrato come le delibere sottoposte ad attenzione dalla magistratura sono perfettamente coerenti con le leggi, e sono sicuro che questa verità, che è tale per me e per quelli che hanno esaminato le carte, sarà tale anche per chi dovesse eventualmente in futuro giudicare. Sì. Ma quindi, secondo lei, come finirà? Perché tra una ventina di giorni credo ci sarà la richiesta, la decisione se richiedere il rinvio a giudizio o no. Secondo lei, dove? Sicuramente lei si proclama innocente, non è, di non aver fatto nulla di illecito. Di più che innocente. Guardi, la cosa strana è che, come tutti sanno, Regione Lombardia è l'unica regione in pareggio di bilancio, cioè l'unica regione che non ha violato la Costituzione. C'è una legge più importante della Costituzione? In Italia no, è la legge principale, eppure tutte le regioni hanno violato la Costituzione, nessuna indagine è scattata. L'indagine è scattata nei confronti dell'unica regione, dell'unico governatore, che hanno sempre rispettato la Costituzione, tra l'altro garantendo un servizio che è eccellente. Come fa a esserci corruzione laddove c'è pareggio di bilancio e laddove c'è servizio eccellente? Evidentemente è una lettura distorta che, d'altra parte, ripeto, l'analisi delle nostre delibere contestate chiarisce in maniera inoppugnabile. Noi abbiamo applicato le leggi e abbiamo dato a ciascuna delle strutture sanitarie il proprio, anche perché altrimenti le altre strutture sanitarie pubbliche e private avrebbero fatto ricorso. Alcune proteste ci sono state, sì. Vede, e difatti, voglio dire, alcuni hanno ricorso dicendo questo o quello ha avuto di più di quanto aspettava. Ma ogni volta il Tribunale amministrativo, il Tribunale ordinario hanno dato ragione a noi e torto ai ricorrenti. Senta, poi parliamo di politica, però ci sono due aspetti della lettura dei verbali che avrà letto anche lei sui giornali, ciò che lei contesta, l'idea che vengano pubblicati, di cui le voglio fare un paio di domande. La prima è questa: c'è questo funzionario di banca che dice che si presentava da lei a ritirare banconote da 500 euro per poi fare bonifici alla sua compagna di allora. Mente questo funzionario? Ma guardi, questo stesso funzionario dice di non avere ricordo preciso della cosa. Quando è stato usato come uomo spia, mi sembra, poveretto, che gli abbiano addirittura ammesso addosso una microspia, gli ho chiesto rendiconto dei miei conti, cioè non esiste, anche di questo fatto non esiste prova, quindi il funzionario ricorda decisamente male e comunque non è in grado di provare nulla. E l'altra questione è quella che è emersa con anche articoli che l'hanno un po' presa in giro, cioè sembra che lei abbia trovato un modo per vivere bene, cioè non pagare nulla. Ecco, ci vuole chiarire questa cosa delle cene, delle vacanze? Anche questo è di dimostrabile proprio dall'esame dei miei concorrenti. Qui mi stupisce perché la magistratura ha vivisezionato i miei conti proventi. Ogni mese, io ho guardato gli ultimi 7-8 anni, ogni mese escono dal mio conto corrente alcune migliaia di euro destinate proprio alla mia vita privata. Come ogni normale cittadino, io contribuisco a pagare l'affitto, le spese di riscaldamento, le spese personali, le spese di vacanza, le eventuali pizzerie, ristoranti. Ma perché ci sono persone, non so, lo chef Sadler, dove lei va, dice pagava sempre D'Accò, non pagava. Ma perché le cene erano organizzate da D'Accò ed erano destinate a centinaia di persone. Mi perdoni, poi che uno abbia ricordo particolare che tra quelle centinaia di persone talvolta c'era il presidente Formigoni, lo posso capire, era il personaggio di rilievo, ma le cene erano organizzate dal signor D'Accò per le esigenze di pubbliche relazioni del suo lavoro. Talvolta al tavolo sedeva anche Formigoni. Ma scusi, lei quando è invitato al ristorante paga lei o paga l'amico che l'ha invitato? No, ma nei racconti, cioè nei racconti, lei avrà letto gli articoli di Francesco Merlo, del Corriere della Sera, Gramellini, cioè sembra tratteggiano un presidente Formigoni che raramente mette mano al portafoglio, ecco. Le ripeto che l'esame dei miei conti correnti dimostra esattamente l'opposto e proprio questi racconti fantascientifici dimostrano che l'obiettivo è quello di cercare di distruggere il personaggio politico Formigoni, che certamente è un personaggio scomodo. Le segnalo che qui in Lombardia le imprese private che si occupano di sanità hanno un guadagno attorno al 5% anno, in altre regioni l'hanno di 25-30%, quindi si cerca di far saltare, l'obiettivo è far saltare il sistema regionale lombardo che non offre, secondo qualcuno, sufficienti guadagni a chi investe in sanità. Ma questo perché? Per consegnarlo politicamente al centro-sinistra? Cioè... Insomma, per farlo saltare, perché arrivi qualcun altro. Poi certamente vale anche la regola ferrea della stampa italiana di favorire il centro-sinistra piuttosto che il centro-destra. E perché? Perché la regola ferrea della stampa? Vedi una stampa, una stampa schierata? Perché da 40 anni è così, perché da 40 anni è così, lo sappiamo. Perché da 40 anni è così. Mi diceva che parliamo anche di politica. Sì, certo, parliamo anche di politica. Senta, Maroni sta secondo lei prendendo le distanze un po' da Formigoni, la regione Lombardia, oppure vuole continuare in quella continuità che c'è da 20 anni? Lo dice in maniera chiara: Maroni vuole preservare e rafforzare tutte le eccellenze che abbiamo costruito in questi anni, certamente innovando, per esempio, di fronte a questa crisi drammatica che non cessa di martirizzare le nostre famiglie e le nostre imprese. Insieme nel programma abbiamo previsto delle misure straordinarie, quindi c'è una compattezza assoluta della nostra coalizione. A questo proposito, invece, a livello nazionale, Berlusconi ha detto: se Monti, Fini e Casini vanno, non vengono eletti in Parlamento, io mi ubriaco. Non so, lei è disposto a fare qualcosa del genere? Beh, guardi, certamente la presunzione di Monti è andata via via scemando man mano che la sua proposta trovava meno audience presso gli elettori italiani. Monti, che a cui è stato offerto di fare il federatore di tutti i moderati italiani, il fondatore del Partito Popolare in Italia, si è ridotto in un centrino con la compagnia di Fini e Casini, e i sondaggi anche di questi giorni dicono che il consenso diminuisce. Sappiamo che se la coalizione va sotto il 10% non porta a casa neanche un deputato. I sondaggi non possono essere per legge, lei sa, non mi tiri in ballo. I sondaggi che non possono essere... Ho alluso. Lei allude a sondaggi che però per legge non possono essere svelati. Cioè, perché dice presuntuoso Monti? Beh, perché era partito con l'idea di mettere a posto, di dare le bacchettate al centro-sinistra, al centro-destra e di radunare i buoni dell'una e dell'altra parte attorno a sé. Appunto, sì, in questo momento, lo sappiamo tutti, anche prima della chiusura dei sondaggi, è al quarto posto, quindi non solo non vince le elezioni, ma è ridotto a un ruolo di comprimario. D'altra parte, in Italia il sistema rimane bipolare, come è giusto che sia, altrimenti sarebbe la massima confusione. Ma mi scusi, lei crede invece anche alla rimonta di Berlusconi? Perché questo, secondo molte analisi, è un voler dire ce la facciamo, ma in realtà sembra quasi, come dire, per creare questa autorimonta anche negli elettori. Quello che so è che il nostro compito in campagna elettorale è quello di parlare, di incontrare la gente, di spiegare le nostre proposte e anche di indicare i limiti delle proposte altrui. Io stesso sento, andando in giro, che l'attenzione e l'interesse nei nostri confronti va crescendo. Noi sappiamo che gli indecisi sono soprattutto indecisi del centrodestra o cosiddetti delusi del centrodestra, ai quali stiamo spiegando che abbiamo delle responsabilità, ci battiamo il petto, ma se vincessero gli altri la situazione italiana andrebbe peggiorando, aumenterebbero le tasse, ci sarebbe la patrimoniale anche sui ceti medi e sui ceti deboli. Invece la nostra proposta per la crescita è una proposta più credibile. Poi decideranno gli elettori, ma noi sentiamo di essere assolutamente in gara, assolutamente competitivi, a fronte invece di una coalizione di sinistra che abbiamo la sensazione stia diminuendo. Insomma, che la gara sia aperta ce lo testimoniano moltissimi segnali. Ma a questo proposito non è meglio fare, come dice Monti, un bel confronto televisivo? Perché Bersani, le chiedo soprattutto Berlusconi, per motivi diversi, adducendo motivi diversi, sfuggono a questa ipotesi. Ma guardi, sui confronti televisivi c'è stata molta confusione, perché le prime proposte erano di fare confronti tra 7-8 persone ed erano assolutamente inaccettabili. Poi improvvisamente Monti viene fuori con questa idea di un confronto a tre a pochi giorni dalla chiusura. Insomma, anche questo è un dato che dimostra come Monti senta il baratro davanti a sé e tenti di recuperare, limando qualche voto Berlusconi o Bersani, quali giustamente dicono: vabbè, vattene a conquistare tu sulle piazze, caro professore. Invece quindi fa bene Grillo a detestare la TV. Mi dice cosa pensa lei di Beppe Grillo? Guardi, Grillo invece aveva assunto un impegno, dopodiché le cose si possono cambiare, però aveva assunto l'impegno di andare ad una trasmissione televisiva, non l'ha fatto. Comunque, vede, sono tutte strategie elettorali, quello che conta è la qualità della proposta che gli elettori devono percepire, per cui il nostro lavoro deve essere quello di illustrare la nostra proposta. Noi su questo stiamo lavorando. Le chiedo ancora un paio di domande. Lei non teme che comunque le vicende giudiziarie della Lombardia rischino di far perdere una regione che storicamente negli ultimi 20 anni è stata appannaggio del centrodestra? Non sente, diciamo, il peso anche di questo rischio, di questa responsabilità? Guardi, noi sappiamo che la battaglia è dura e si gioca sul filo del voto, e quindi stiamo lavorando appunto per poter confermare il buon governo che abbiamo realizzato in questi anni. Dopodiché, anche in questo mi permetta di dire, il grande scandalo esploso a 20 giorni dalle elezioni è quello del Monte dei Paschi di Siena, la banca rossa. Le indagini sono state immediatamente silenziate, anche Napolitano ha invitato a silenziare, benissimo. Poi sono esplose le inchieste che riguardano il cosiddetto centrodestra, in cui nessun Presidente della Repubblica è invitato a silenziare, e le magistrature invece stanno diffondendo cose vere e cose false. Vedete, qui c'è la differenza, no? Le inchieste che riguardano la più grande banca rossa non se ne parla nessuno, nessun politico viene interrogato, viene sentito, e abbiamo tutti la lista di quelli che sono coinvolti, mentre quando si tratta di mettere sotto inchiesta Orsi, Scaroni, di condannare il generale Pollari, di condannare, di parlare di Formigoni, i particolari abbondano a tonnellate. Però guardi, oggi su Repubblica per esempio ci sono due pagine su Montepaschi, la Consob che ha fatto dei rapporti con... è stato arrestato, sono stati fatti degli arresti per Montepaschi, non è vero che insomma è stata, perché dice è stata silenziata? È la connessione con la politica di Montepaschi che viene messa in rilievo. E per lei invece c'è, per lei invece c'è ruoli dirigenti di Montepaschi sono sempre stati nominati dal Partito Comunista, poi dai DS, poi dal PD, questo è noto. Quindi la responsabilità oggettiva in capo alla politica della sinistra, che invece non viene tirata in causa. Senta, per concludere, allora lei ci può assumere questo impegno a dire lei paga tutto quello che consuma, più o meno, insomma, se non quando è invitato? Ma certamente sì, ma certamente sì, ma ci mancherebbe altro. Ma vabbè, ma la notizia non è questa, la notizia è che qualcuno sostiene il contrario, senza avere le prove, anzi, avendo esaminato i miei conti correnti, avendo visto queste uscite, e avendole, non lo so, qualche testimonianza c'è, però insomma, almeno che i verbali siano tutti, inventati. Quando ricevo un invito come Presidente di Regione, ricevo centinaia di inviti a cene, pranzi, aperitivi, incontri da una parte, incontri da un'altra, posso rispondere al 3-4% di questi inviti. Sì. Tanto è chiaro che quando ricevo un invito sono ospite in casa di una persona piuttosto che da un'altra parte. Ci sarebbe quella vicenda, per concludere, della crema da viso da 300 euro. La crema è una medicina, innanzitutto. Avevo un'irritazione alla pelle e ho dovuto per un mesetto utilizzare questa medicina, e appunto da qui è stato fuori che mi facevo pagare le creme, ma quella crema, che è una medicina e non una crema di bellezza, evidentemente ne avevo urgente bisogno, perché non, stavo per partire per una trasferta e prendo esaurita, per cui ho detto al mio segretario: aiutami a trovarla in fretta perché non posso interrompere la cura. Ed è partito l'autista, è vero che è andato l'autista? No, io ho detto: siccome devo andare anch'io in quella zona, possiamo andare. Invece il mio segretario è riuscito a farla arrivare in ufficio. L'autista lo uso per le esigenze istituzionali, non per le esigenze personali. Va bene, la ringrazio, in bocca al lupo per la campagna elettorale. Nuovo. Grazie a Roberto Formigoni per essere stato con noi, presidente della regione Lombardia. Noi tra tre minuti, dopo la pausa pubblicitaria e il meteo, parliamo di che cosa? Sempre di, insomma, queste inchieste, l'abbiamo fatta anche venerdì. Ma allora Monti dice: tornata a Tangentopoli, qualcosa è stato citato, insomma, la vicenda Formigoni, ma la vicenda Finmeccanica, la vicenda Montepaschi Siena, la vicenda Eni. A sei giorni dal voto, qualcuno nei giorni scorsi titolava: le procure scendono in campo con le inchieste, insomma, che paese è? Che politici ci sono? Che classe dirigente è? Che elettori abbiamo? Perché anche questa domanda la voglio porre ricordando quello che è stato lo straordinario intervento di Claudio Bisio a Sanremo. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:34 minuti, 800 24 00 24, dopo aver avuto Roberto Formigoni con noi. Vogliamo parlare, insomma, se ai giorni dal voto è tornata la questione prepotente, la questione giustizia e politica sulle prime pagine dei giornali, perché insomma le inchieste nei giorni scorsi, sapevamo, addirittura San Valentino si è trasformato in San Manettino, sono state arrestate molte persone, tante inchieste negli ultimi giorni, dal Montepaschi alla questione Finmeccanica, la questione Eni, le questioni politiche, lo stesso Formigoni, insomma, tanto che il premier Mario Monti ha detto: ma certo, è una nuova Tangentopoli. Ne parliamo con Massimo Fini, intellettuale scrittore del Fatto Quotidiano. Buongiorno Fini e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Saluto anche Davide Giacalone, che è anche lui scrittore, scrive per Libero, editorialista di Libero. Buongiorno Giacalone, benvenuto. Buongiorno allora, a tutti, buongiorno. Allora Fini, Fini sabato sul Fatto Quotidiano ha pestato duro, insomma, su questa situazione. È tornata Tangentopoli o Tangentopoli non è mai finita? Tangentopoli è sempre stata dentro di noi e con noi? Direi che questo è peggio di Tangentopoli, nel senso che Tangentopoli era un sistema, qui ormai è, diciamo, è come un cancro che ha diffuso le sue metastasi assolutamente dappertutto. Non c'è punto del sistema in cui la magistratura vada a mettere il dito dove non trovi grassazioni malefatte e tutte queste cose. E quindi è fallito, si può dire, anche il senso di Tangentopoli, che era quello di azzerare una classe dirigente che aveva colluso con la corruzione. E poi ci ritroviamo in questa situazione. Non ci se ne può meravigliare, nel senso che dopo i due anni di inchieste di Mani Pulite 92-94 è bastato pochissimo perché la classe dirigente rovesciasse le carte, cioè i ladri erano diventati le vittime e i giudici i carnefici. È chiaro che in una situazione di questo genere tutti quelli che tendono al malaffare si sono sentiti incoraggiati a farlo, ma direi che è una metastasi che ha preso tutto il paese, e non solo alla classe dirigente, ma anche ai livelli più bassi, anche la popolazione. Anche la popolazione. A questo proposito, lo vogliamo risentire, chiedo a Fini e a Giacalone, Bisio? L'avete sentito? Giacalone, l'ha sentito Bisio venerdì a Sanremo, sabato a Sanremo, quando ha fatto l'intervento? L'ho letto, per la verità. Perché sentite, guardate che Bisio ha fatto un intervento con la sua satira pungente, il suo modo, molto molto efficace anche di quello che potrebbe essere una lettura dell'Italia di oggi. Sentite Bisio a Sanremo. Finché ci sono loro, tutti loro, questo paese non cambierà mai. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Non mantengono le promesse. Sono incompetenti, bugiardi, inaffidabili. Credono che siano tutti diritti, nessun dovere, danno ragione. A casa! Tutti a casa! A casa! A casa! A parte che, scusate, devi anche specificare a casa di chi, perché vedi che vengono a casa mia. Io vedo qualcuno lì in guida che mi fa dei gestacci. No, lo so, ho firmato dei contratti, sono le penali, caso che mi rovino, perché no, c'è la par condicio, mi rendo conto, non si può parlare dei politici. Ma chi parlava dei politici? Io non stavo parlando dei politici. Cosa ve l'ha fatto pensare? Forse quando dicevo bugiardi incompetenti, ma siete voi maliziosi. Io giuro, potesse cadere Paolo Caratani. No, per dire che non giuro, non stavo parlando dei politici, anche perché se ci pensate bene, quanti saranno i politici? C'è qualche centinaio. Anche se andassero a casa tutti loro, cosa cambierebbe? Poco. Io quando dicevo tutti a casa, non stavo parlando degli eletti. Io stavo parlando degli elettori. Stavo parlando di noi. Giacalone, degli italiani. Gli italiani, non a casa i politici. Forse dovremmo fare una riflessione, e mi leggo a quello che ha detto anche Massimo Fini, che è entrata a livelli più bassi in tutti noi. È facile dire a casa, ma si riferiva agli elettori, non agli eletti. Le piace questo? Ma veramente, diciamo, io ci ho perso i capelli perché abbiamo fatto una certa età, ma è dagli anni 80 quando andava di moda parlare della società civile. Adesso è tornato di moda, sono come il borsello da uomo, adesso è tornato di moda anche quello, sì. e che si dice la classe politica fa schifo, la società civile ha le risorse. In realtà, diciamo, sui grandi numeri le due società si assomigliano, anche perché sono una figlia dell'altra e una madre di quell'altra, su questo non c'è dubbio. Purtroppo, diciamo, noi ci portiamo dietro un imprinting astatale, asociale, a collettivo dell'italianità, che perché ha anche degli aspetti interessanti e talora straordinari, ha degli aspetti deteriori micidiali, che ma sono in questo, quelli in casa mia è pulita, la strada sotto casa fa schifo. La giustizia, i giudici cosa devono fare? Perché lei ha scritto sabato o venerdì sul Libero a dire la giustizia è impazzita, è fuori controllo, questi giudici sono fuori controllo, che fanno se non fare il loro dovere e trovare il malaffare ovunque? Non è vero, non è così, per il semplice motivo che questa è una visione fumettistica, no? Che c'è la politica che ruba e la giustizia che la persegue. No, la giustizia è in bancarotta totale in Italia, nel senso che non funziona, non ha senso continuare ad avere un paese nel cui lo spettacolo dell'accusa viene denominato giustizia e ci si dimentica poi di controllare come vanno i procedimenti, come vanno i giudizi, perché poi i giudizi ribaltano in grandissima parte la scena dell'accusa, ma nessuno se ne occupa più. È un paese che ha perso il senso del diritto. La giustizia non si amministra nelle procure, si amministra nei tribunali, e purtroppo non è questione di responsabilità dei magistrati, perché ci sono le leggi fatte a cavolo e l'amministrazione della giustizia lasciata a una corporazione che pensa alla carriera e non intende essere giudicata. Fini, ha capito qual è la questione? È lo spettacolo della giustizia. Sì, va bene, che questo è un vecchio discorso che la destra fa da quando è entrato in campo Berlusconi, perché poi è stato anche colpito Berlusconi. Il vero problema della giustizia è, e io lo scrivo da 30 anni, la lunghezza delle procedure, per cui... Non è una tesi di destra, è una cosa giusta. Proprio, questo, su questo avrebbe dovuto agire la classe dirigente, non se ne è mai assolutamente preoccupata. Se non... Il magistrato fa il suo mestiere, purtroppo lo fa in un groviglio di leggi che sono state approvate e varate da chi? Dal Parlamento, cioè dai politici. Quindi dare la responsabilità alla magistratura perché fa le inchieste mi sembra assolutamente grottesco. No, perché dice Giacalone, c'è una spettacolarizzazione della fase dell'accusa che poi va a perdere. Questo riguarda i media, riguarda nel vecchio codice Rocco, che sarà stato fascista, ma era un giurista di primo ordine, l'istruttoria è segreta e il dibattimento è pubblico, il dibattimento è segreto negli stati totalitari. Ecco, noi adesso abbiamo un istruttoria su tutti i giornali. Capisci? È questa la distruzione, ma non certo che il magistrato faccia l'inchiesta quando c'è No, però io vorrei chiedere questo a Giacalone. Giacalone, è vero, cioè, c'è una spettacolarizzazione, se vuole, poi dopo i processi, i procedimenti come vanno in tribunale, spesso vengono ribaltate le tesi delle procure, delle accuse, però è anche vero che, voglio dire, è la classe politica che doveva fare le leggi per snellire i procedimenti, è la classe politica che lo deve fare in Parlamento. E qual è quel gallo, cos'è, quel tacchino che anticipa il Natale, mettiamola così? No, non è esattamente così. Allora, Laddove la magistratura è andata a intaccare i politici, è interesse dei politici, come di tutti i cittadini, tirare in modo che i processi non vadano a compimento, o no? Non esattamente. Allora, chiariamo, primo punto, il centrodestra italiano, denominando così ciò che è nato nel 1994, sì, a guida di Silvio Berlusconi, ha sul tema della giustizia totalizzato un fallimento totale per sua responsabilità, e così ci siamo tolti il problema degli schieramenti destra, sinistra, sì, sterminate. Però non possiamo prenderci in giro e dire il problema sono le leggi, se no quei poveri magistrati le applicherebbero, perché non è vero. Nel codice penale ci sono termini che vanno rispettati, tanto per la difesa quanto per la procura, solo che i termini per la difesa, cioè quelli che riguardano il cittadino, sono denominati dalla giurisprudenza perentori, la giurisprudenza la fanno i magistrati, perentori, cioè se non li rispetti decade un tuo diritto, decade una tua possibilità, decade la possibilità di fare ricorso. Se invece i termini si riferiscono ai magistrati, essi sono ordinatori, dice la giurisprudenza, cioè si può tranquillamente fregarsene, così che un magistrato che finisce, un giudice in questo caso, che finisce un processo alla fine del 2010 e pubblica le motivazioni che dovrebbero essere lì dopo un mese, dopo 5 anni, che cos'è? Uno che deve aspettare la legge del Parlamento è un incapace, o è un corrotto, o è un imbecille, o è uno che magari ha tanto lavoro e non riesce questa cosa del tanto lavoro, la meno produttiva d'Europa, abbiamo il numero più alto di magistrati per cittadino d'Europa, abbiamo il costo individuale più alto d'Europa, e abbiamo sempre questa gente che c'ha troppo da fare, ma su via. Quanto ai politici perseguiti, io non lo so se Fiorito in questo momento gioisce del fatto che la giustizia funziona in questo modo, perché il Batman, che ha mille e una ragione per essere condannato politicamente senza appello, io ho l'impressione, leggendo le carte, che in processo quello la spunta, al momento se ne sta agli arresti domiciliari. Credete che sia nel suo interesse? No, il problema è che la giustizia che non funziona è contro l'interesse. E questo come tutti, non so la percentuale, ma altissima di persone che stanno in attesa di giudizio nelle carceri. Quindi voglio dire, non vale solo per i politici. Ma dopo il traffico, voglio partire con questa domanda che ci riporta sul tema Tangentopoli o no, se esista o meno, perché questo è quello su cui si interrogano molti italiani, una giustizia a orologeria. Anche prima qua i nostri microfoni Formigoni ha fatto capire che, insomma, mentre il Montepaschi non si sa più niente, viene un po' insabbiato, e invece per colpire Formigoni il centrodestra, eccola qua la giustizia a orologeria. Eccoci qua, 800 24 00 24, siamo con Massimo Fini e Davide Giacalone. Fini, c'è questa giustizia a orologeria? Qualche giorno fa Antonio Polito sul Corriere della Sera scriveva: il CSM faccia un'indagine su questo. Ma no, ma anche questo è un vecchio topos della destra e anche in parte della sinistra. In Italia ci sono continuamente elezioni, eventi politici. Se si dovesse rispettare un calendario politico non si potrebbero più fare inchieste. Mi ricordo che all'epoca dello scandalo Teardo, Savona, eccetera, il socialista che fu arrestato, i socialisti saltarono in piedi perché dicevano che era un modo per impedirgli di andare non so se erano regionali o cose. Teardo fu arrestato e poi dopo fu condannato insieme alla sua banda. Se non l'avessero arrestato, non sarebbe, essendoci allora l'umanità parlamentare, non sarebbe mai stato preso. Non c'è una giustizia a orologeria, anche perché bisognerebbe in questo caso immaginare che ci sono dei magistrati di destra che hanno fatto inchieste sull'MPS apposta per danneggiare la sinistra, e magistrati di destra che hanno fatto poi e magistrati di sinistra che poi hanno fatto inchieste per mascherare. Cioè, se si pensa a questa cosa, alla magistratura, allora, che è l'organo di garanzia, E se le inchieste vanno bene in un caso, quando ti favoriscono e non quando ti sfavoriscono, beh, allora non c'è più l'organo in garanzia, allora è accettabile, diventa legittima l'eversione violenta, insomma, perché è come l'arbitro, insomma, di l'arbitro tu puoi dire che non ci vede, che non è capace, tutto quello che vuoi, ma se alcuni se uno non crede all'arbitro, allora dice fare la partita. Allora è legittima l'eversione, l'anarchia, l'eversione violenta. Se alcuni giocatori contestano i fischi dell'arbitro quando sono contro di loro, ma accettano i fischi quando sono a loro favore, cosa succede? Che anche tutti gli altri faranno lo stesso. Fuori di metafora finisce il patto sociale che c'è fra di noi. Davide Giacalone, una perché sorride? No, perché questa cosa della giustizia e l'arbitro è figlia di un'idea autoritaria dello Stato. La magistratura non è, ho capito, però è un organo di garanzia, autoritaria, è un dello Stato, è un ordine. Sì. Chiedo scusa, non sento più niente. No, dico autorità, forse l'idea dell'arbitro non è autoritaria, è un'idea di delle regole, di un patto sociale, di uno Stato che si dà delle regole. Cioè... No. È Montesquieu, allora neghiamo... Anche la giustizia sportiva esiste di corso, quello che è garanzia per la collettività non è il magistrato o la magistratura, ma è il meccanismo di giustizia, e purtroppo questo meccanismo, che è fatto nel nostro ordinamento, ma non tutti gli ordinamenti del mondo sono uguali, nel nostro ordinamento sono 3 gradi di giudizio, questo meccanismo si è rotto, ma non perché, rispondo alla sua domanda, se c'è giustizia o orologeria, ma perché si è rotto l'orologio della giustizia. Quindi quando un orologio è rotto e parli sempre le stesse cose, non le deglutisci mai, non le digerisci mai, tornano inevitabilmente a gola. Poi, siccome c'è una compartecipazione di colpa del sistema dell'informazione e del sistema giudiziario, per cui le inchieste che fanno titolo sono quelle che riguardano cose o persone che agevolano, diciamo, questo far titolo, è evidente che nel corso di una campagna politica alcune cose finiscono con l'avere maggiore spazio, ma il dramma non è che abbiano spazio sui giornali, il dramma è che non hanno conclusione giudiziaria. No, questo sì, però Giacalone, è quella. No, però Giacalone, lei è d'accordo sul fatto, come dice Fini, che se si parla di giustizia orologeria, cioè se si pensa che ci siano dei magistrati che agiscono per fini politici, a quel punto viene un po' meno il patto sociale, cioè nel credere nel ruolo di terzietà del magistrato, e quindi uno dice allora io faccio quello che voglio. No, guardi, scusi, nel nostro sistema la terzietà è del giudice e non del magistrato. Il magistrato può essere tranquillamente tutt'altro che terzo, ma una parte, tant'è vero che in processo accusatorio rappresenta l'accusa il magistrato. Però rappresenta il l'accusa, ma invece, cioè quello che sta scritto dall'altra parte, dovrebbe essere terzo. Ma l'idea che sia motivato da un voler colpire politicamente una persona, cioè l'Italia, le procure sono piene di tanta gente che fa correttamente, con competenza, il proprio mestiere, così come di gente che pur di andare sui giornali sono disposti a tutto, a tutto, ma sto parlando del magistrato. Sì, il certo, giudice certo. È un altro. Certo, quindi ci sono magistrati che pur di andare sui giornali colpiscono, per avere la notorietà colpiscono, e quindi anche politicamente. Fini. Adesso le inchieste della procura di Milano, di Boccassini, di Davigo e degli altri furono fatte per andare sui giornali, ma non scherziamo. Ma non ha detto quello. Non ha detto quello. Boccassini è uno dei migliori magistrati d'Italia, quindi forse si riferiva ad altri. Lo so, ci sono le procure che lavorano solo in silenzio, sono quelle che piacciono molto perché non fanno mai niente. Se c'è un sistema di garanzie in Italia, siamo l'unico paese a avere 3 gradi di giudizio, dove anche il terzo, quello della Cassazione, che dovrebbe essere di pura legittimità, è diventato di merito. Quindi quando per esempio ci si scandalizza perché la Corte d'Appello riforma il tribunale, sono le garanzie. Ripeto, il problema è che queste cose avvengono in tempi troppo lunghi. Ma certo, questo siamo d'accordo. Ma mi ricordo di aver scritto sul Giorno, che allora è un giornale importante, un editoriale, cioè una cosa è rivolto come lettera aperta a Bettino Craxi, perché c'erano carcerazioni preventive di 9 anni. E non ci fu una risposta, non dico di Craxi, non dico di Mastelli, non dico di un luogo scalzacane. Quando poi con Mani Pulite andarono in galera per qualche settimana loro signori, certo, addio Amnesty International. Questa classe politica non è salvabile. Bisio, che ripete parole di Grillo, in realtà ha ragione. Purtroppo per ci sono anche persone per bene naturalmente in Parlamento, ma è una crisi di sistema e questa gente deve andare, andare a casa e per poter... Ho capito, ma a casa e poi chi mettiamo, Fini? Questo lo vedremo. Ah sì, no, certo. Comunque lei condivide l'idea di andare a casa, ma rivolta ai politici, non tanto agli elettori. Sì, anche se ho detto prima che naturalmente questa corruzione ha finito per corrompere buona parte del popolo italiano. Voglio ricordare che negli anni 50, io purtroppo ho l'età, negli anni 50 l'onestà era un valore per tutti, per la borghesia se non altro perché dava credito, per il mondo contadino non parliamone. Basta violare la testa di la stretta di mano era uscire dalla comunità. Adesso non più. Quindi qualcosa è cambiato ed è cambiato in peggio e la classe dirigente, essendo quella che dovrebbe dare l'esempio, è quella che ha dato l'esempio peggiore. Va bene, io mi fermo qui, ringrazio Massimo Fini e Davide Giacalone. Vi ricordo che potete riascoltare tutto, l'intervista dei Formigoni, questi interventi, tutta la trasmissione sul nuovo sito, nuovissimo sito che parte oggi, Radio 24, radio24.it. Quindi andate lì, sentite tutti i contributi, fatevi un bel viaggio per scoprire tutte le novità. Ringrazio tutti per averci ascoltato. Siamo su Twitter, Alino Milan sono io, 24 mattino e la trasmissione, potete seguirci. L'appuntamento è rinnovato domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.